La forza si calcola moltiplicando la massa per l'accelerazione gravitazionale, che possiamo approssimare a 10. Se la forza richiesta è di 4500 N, qual è la massa in chilogrammi che può generare una forza simile?